Ma io grazie dell'invito e sono molto contento di essere qua. Ma io partirei da questo perché poi credo che l'esperienza di Cassinetta di Lugagnano è l'esperienza di un piccolo comune che ha deciso di fermare il consumo del territorio. Il dato in Italia è quello che diceva benissimo Carlin Petrini in una sua lettera Repubblica. In Italia c'è la malattia del consumo del territorio, sono 250.000 ettari all'anno. In 15 anni il territorio del Lazio e dell'Abruzzo messi assieme è sparito sotto fondamenta o sotto bitume e asfalto. Dal 1950 ad oggi, in questi 55-58 anni, un'area vasta quanto il nord Italia è stata seppellita sotto il cemento. Io credo che una persona di media intelligenza, non come dice Berlusconi che ha fatto in seconda fila, ma una persona di media intelligenza, di fronte a questi dati, debba saltare sulla sedia e dire: mi stanno fottendo il futuro in Italia. Perché è quello che sta succedendo. Prima lo diceva benissimo Roberto Brambilla sul dato sull'impronta ecologica, ma in Italia, in tutta Italia, non c'è angolo in cui non vi sia un progetto a base di cemento, sia l'autostrada, sia la TAV, sia essa l'inceneritore, sia essa il grande piano di espansione residenziale o industriale, urbanistico. Non c'è in Italia un angolo di una delle 20 regioni in cui non vi sia una vertenza territoriale concreta e su cui ci siano poi dei movimenti abbastanza preparati anche dal punto di vista scientifico, no? Io sono stato 2 settimane fa a Villardora, ospite di una delle iniziative del Grande Cortile, e ho trovato in quel contesto una preparazione che i partiti di oggi se la sognano al loro interno. I partiti di oggi sono dei gusci vuoti in cui tutti seguono Berlusconi o Veltroni e il leader e non fanno nessuno studio, no? Non vanno ad analizzare dati come quelli che ho appena citato e si costruiscono una coscienza su questi dati che sono dati concreti. Oggi in Italia ed Expo è all'interno di questo meccanismo perverso. Si gioca al gioco dello sviluppo a tutti i costi, lo ipotizziamo come la panacea di una crisi che è sotto gli occhi di tutti. E credo che io su questo, pacatamente, come dice qualcuno, comprendo che si possa gettare il vino perché non è buono, però quando quello che si va a assaggiare è fatto di cemento, poi dopo lo puoi buttare, però sempre cemento resta, sempre lì rimane. Io sono convinto che comunque la modalità con la quale Slow Food si è approcciata ad Expo 2015 sia stata una modalità genuina, perché il tema era di quelli accattivanti. 26 milioni, 29 milioni di persone che vengono in provincia di Milano e a Milano per visitare è comunque una bella vetrina, no? Però bisogna essere altrettanto, così come all'interno di tutti questi movimenti che animano la vera politica, perché io credo che la vera politica oggi sia questa e non sia quella di Porta a Porta, dove si parla ancora di crescita come se avessimo sotto i piedi una terra infinita, dove si parla di come unico modo per risolvere il nostro problema contingente, che poi in realtà è un problema generale, si parla soltanto di grandi infrastrutture per rilanciare l'economia. Ma quella non è politica, quello è teatrino che si dà in pasto ai cittadini per tenerli buoni, no? In realtà, se nei circuiti come questo, come quello di Slow Food, come quello delle città del bio, come quelle dei diversi comitati e di diverse associazioni che affrontano il mondo dell'agricoltura, se in questi luoghi non si va veramente a prendere coscienza vera di quello che abbiamo di fronte, io credo che ci faremo rinchiudere in un angolo, ci faremo marginalizzare, no? Perché io sono convinto che sia importante mandare avanti un segnale di protesta, però fino a quando la protesta si conclude in questi ambiti e non si trasforma in qualche modo in un momento politico puro, perché è vero, noi a Cassinetta di Lugagnano abbiamo fatto delle scelte e stiamo in questo ultimo periodo andando anche in giro a portare la nostra testimonianza. Però se noi non avessimo fatto il salto dall'altra parte della protesta, entrando nella stanza dei bottoni, non saremmo qua oggi. E e avremmo magari spuntato qualche cosa in meno a Cassinetta di Lugagnano, ma la scelta sarebbe stata quella omogenea che viene fatta in tutto il territorio nazionale, cioè quella di finanziare i comuni con la svendita del territorio. Diceva benissimo prima Santeramo, oggi i comuni sono in crisi finanziaria e si svendono il territorio per fare cassa, per pareggiare il bilancio, e questo è un meccanismo perverso, secondo me anche in qualche modo scientificamente voluto dal legislatore, che vabbè, non ha svolto nessuna funzione di regolazione della vita sociale e economica anche del nostro paese, ma ha messo in campo una serie di, anzi non ha messo in campo una serie di interventi che avrebbero potuto evitare che i comuni si trovassero in questa condizione. Perché io per pareggiare il mio bilancio devo fare 15 capannoni o 500 villette? Non sta scritto da nessuna parte, non è una legge fisica che il comune, se non fa cassa, non... È stato costruito in questo modo il nostro sistema urbanistico e amministrativo, in un intreccio perverso, credo anche volutamente, per avere il risultato che vediamo oggi, con una situazione che non è regolata. Questo è il mercato non regolato, in cui i comuni non hanno svolto la loro funzione, e in cui le forze economiche, che sono fortissime, finanziarie, hanno di fatto messo a servizio di un interesse legittimo per qualcuno, ma privato, il bene comune. Fino a quando le comunità, il popolo, non si rende conto di questo, io credo che noi faremo dei bellissimi dibattiti, faremo delle bellissime proteste, dei bellissimi cortei, ma finiremo là la nostra funzione. Dico questo perché credo che o si produce lo stesso meccanismo che io ho visto in Val di Susa, oppure non si andrà da nessuna parte. E ci sarà ulteriormente cemento su cemento, e non lo fermeremo certamente noi con quattro bandierine. In Val di Susa c'era un popolo, e c'è tuttora un popolo. Adesso c'è un problema con gli amministratori, ma credo che se questo popolo riesce a farsi non più rappresentare, ma a rappresentarsi da solo alle elezioni, no, potrebbe, ecco. Però in Val di Susa c'è un popolo consapevole, con una coscienza che quello che sta arrivando modificherà il proprio futuro. Oggi in Lombardia e a Milano questo popolo ha la coscienza che non avrà più un futuro? Io credo di no, non ce l'ha. Se voi andate fuori da Leoncavallo a chiedere ma lo sai che ti stanno asfaltando, la gente non gliene frega niente. Diciamo le cose come stanno. Gli agricoltori, racconto questo piccolissimo aneddoto e poi dopo la chiudo. Io sono rimasto profondamente deluso quest'estate. Noi, vabbè, a Cassinetta di Lugagnano, insieme a centinaia di persone, abbiamo cercato di bloccare questa grande infrastruttura, che è uno dei tasselli della tangenziale esterna di Milano, che per inciso sarà il nuovo confine della grande Milano, che qualcuno con Expo vorrà essere la città da bere, ecco, che passerà da Beategrasso, Magenta, Malpensa, Pedemontana, Brebemi, ecco, sarà il nuovo grande anello, e lì incomincerà la grande rincorsa. Quest'estate, tra la posta del mio comune, trovo una lettera della Tamoil, con cui mi comunica che ha già raggiunto un accordo con l'agricoltore del comune di Cassinetta di Lugagnano, dove insisterà questa grande infrastruttura, con la quale ha già il preliminare per fare un bel autogrill. Ecco, quindi perché dico questo? Perché se in Val di Susa c'è il problema che gli amministratori non seguono, comunque per diversi motivi legati a dinamiche nazionali, anche con amministratori che non seguono più il popolo, ci sono nel nostro territorio magari amministratori o piccoli pezzi di comitati, di cittadini che sono più informati o che sono più sensibili, che non sono seguiti loro dal popolo. Perché se io mi metto alla testa di un corteo con la fascia e dico no tangenziale, poi mi volto e il mio agricoltore sta firmando con chi mi vuole, c'è qualcosa che non va, perché è un problema anche mio che non ho saputo convincere o comunque sensibilizzare a sufficienza e portarlo con la consapevolezza che quello che lui sta facendo in quel momento magari è un atto legittimo dal punto di vista economico, che gli porterà sicuramente un buon beneficio quando l'infrastruttura passerà, anche quando passerò io, perché comunque per fare l'autogrill ci vuole anche un nuovo sindaco, e quindi finché noi siamo là la variante al piano urbanistico se la scorda, però potrà arrivare qualcuno fra 10 anni che ci dica: guardate, c'è questa bella letterina e facciamo l'autogrill. Però è un problema anche nostro, di piccoli amministratori, o comunque di chi deve cercare di contagiare la gente con dei messaggi semplici, immediati, ma che li faccia sbattere contro la verità, perché oggi io sono convinto che la verità non viene, ma viene tenuta all'interno di un circolo marginale, marginalizzato appositamente, perché oggi comunque abbiamo una visione che fra due finti blocchi contrapposti, chi la vuole nera, chi la vuole un po' più grigia, però nessuno mette in discussione il modello di sviluppo, chi lo mette, vabbè, è considerato un piccolo tapino. Prima che ci fosse la Expo 2015, che venisse vinto da Milano, un giorno mi telefona un giornalista del giorno che mi dice: guarda, sto cercando un sindaco che è contrario all'Expo, non ne ho trovato nessuno, ma mi hanno detto di chiamarti. Ho detto: va bene, cosa ti devo dire, l'hai trovato, però... E quindi dopo c'era questa intervista, che sembrava quella delle Iene, fra Cassinette, che era abbastanza ridicola, perché comunque è un po' paradossale che ci siano dei piccoli comuni, o comunque delle piccole realtà, che vengono prese come il modello alternativo a quello che ci propinano la Moratti, Formigoni, Penati. C'è qualcosa che non va, che non gira. C'è un modello, è calato, è ormai il modello principale, che sta dimostrando segni evidenti di scricchiolamento, che cede, perché se noi oggi a settembre non abbiamo più le risorse per fare il pane, perché questa è la denuncia della Coldiretti, a settembre in Italia non abbiamo più le risorse per fare il pane, quindi da settembre in avanti viviamo sulle spalle di qualcun altro, no? Che poi arriva e ci azzana i piedi, no? Non come Maroni che mordeva quello lì che voleva portare via, però comunque a settembre noi finiamo le nostre risorse in Italia e viviamo sulla spalla di qualcuno in Africa o di qualcuno in Brasile. Però questo è quello che... Ma l'italiano questo lo sanno, magari lo leggono di sfuggita, poi dopo c'è il Grande Fratello, Vladimir Luxuria, quell'altro, e quindi viene in qualche modo normalizzata la situazione. Se non c'è un salto di qualità politico di tutte queste realtà che vivono sul nostro territorio, che esistono perché sono vive, sono quelle più preparate, che hanno un raccordo con il mondo produttivo, con chi sa cosa vuol dire piantare, seminare, raccogliere. Se non avviene questo, e questo non lo possiamo fare noi a Cassinetta, perché noi non siamo in grado, dovrebbero farlo magari quelli che riescono a scrivere e farsi pubblicare una lettera su Repubblica in prima pagina dicendo che si stanno mangiando il nostro paese. Se non lo fanno queste persone che hanno un'autorevolezza ben maggiore della mia e della giunta di Cassinetta di Lugagnano, è davvero deprimente. E quindi io davvero rinnovo l'appello che ho fatto a Carlin Petrini con quella mia lettera aperta, perché io davvero vedere la lumachina sotto i piedi dell'uomo vitruviano credo che sia abbastanza... Lo sanno tutti, ormai lo sanno, l'hanno scritto su Repubblica, fra un po' probabilmente lo scriveranno anche su Sole 24 Ore, che Expo 2015 è una grande operazione di speculazione immobiliare. E io posso pensare che ci saranno delle bellissime cascine rimesse a nuovo. Per l'amor del cielo, ultimamente ci sono decine di incontri su tutta la provincia di Milano, di Albetti, il sindaco di Abetegrasso, mi manda una lettera alla settimana in cui mi dice: vieni che facciamo la riunione dei sindaci, dobbiamo parlare dei grandi progetti di Expo 2015. Quali sono questi progetti di Expo 2015? Ma no, tu porta i tuoi, se hai qualche campeggio, qualche... Poi magari tu che sei un verde ambientalista porta qualche pista ciclabile, poi magari c'è quello che porta l'autogrill, però ci sono soldi da disposizione. Comunque il meccanismo, la droga che anche gira, è droga pesante questa tra gli amministratori, perché quando ci sono grandi bacini, che poi non c'è una lira, perché si fa vedere, si parla di questi 3-4 miliardi di euro, qualcuno pensa che saranno soldi per fare opere, le vie d'acqua con i fiorellini, che uno parte da Milano ad Arsena, arriva a Gaggiano, a Abetegrasso, poi passa da Cassinetta di Lugagnano, vede i fiorellini, arriva da qualche altra parte, Legnano. In realtà per queste opere non c'è una lira, perché le opere, questi soldi sono per le opere di collegamento al polo fieristico, asfalto e cemento, grandi infrastrutture che verranno con una legge regionale ad hoc, la legge obiettivo della regione, che prevede che laddove queste grandi opere infrastrutturali di grande respiro non venissero realizzate con i fondi che i privati possono mettere a disposizione, questi privati stessi possono valorizzare le aree attigue, no? E quindi praticamente pagarsi la grande infrastruttura con il territorio un'altra volta. Chiudo. Come se ne esce? Se ne esce in questo modo, io credo, cercando di non limitarsi alla sensibilizzazione del politico, perché io credo che ormai sia difficilmente sensibile o sensibilizzabile, ma diventando politici noi, essi, chi la pensa in questo modo. Credo che se qualcuno, gli esponenti della classe dirigente politica dominante di oggi, che magari negli anni 60 si chiamavano i figli dei fiori, alcuni di loro, e quindi volevano ritrovare l'armonia, il rapporto con la natura, l'equilibrio, oggi poi li vedi che sono là che io la voglio a due corsie, no, io la faccio a tre, no, tu non hai capito perché in questo modo il prodotto interno lordo non cresce abbastanza e quindi non hai capito come... Parlano della stessa cosa, danno ricette parzialmente differenti, ma l'obiettivo di fondo di entrambi gli schieramenti, e io su questo sono molto critico anche sulla sinistra arcobaleno, ma perché se davvero la sinistra arcobaleno, comunque quel pezzo che resta di questo mondo, non capisce che o parla seriamente di temi che fanno a cazzotti con questo modello, ma veramente non... parla di decrescita, che incomincia a parlare di un modello proprio alternativo, ma non in maniera nuova, andando a indagare veramente quale può essere un nuovo modo di sia di fare politica, ma anche proprio di organizzare la vita delle persone. O riesce a fare questo, oppure vabbè, saranno messi nell'angolo, sperando che non ci sia la soglia al 5%, così 4-5 deputati riusciranno a portare avanti ancora il loro sogno di autoemancipazione nella politica italiana. Però io su questo mi chiudo e me ne ritorno a Casinetta.